avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Préparatevi a di non ridire. O voi feticisti della carta stampata, o voi che assaporate, sniffate, vellicate, accarezzate le pagine di un libro, che tenete come un feticcio fra le vostre dita, che mai avete il coraggio di allontanare dal vostro scaffale, che mai buttereste nel cassonetto della raccolta differenziata. Perché? Perché il libro è un oggetto che merita rispetto, perché il libro è sintomo di cultura, perché il libro ci distingue, perché è meglio un libro che un amico, un buon libro che un cattivo amico. Perché un libro, perché con un libro in mano uno si ha sempre un grande atteggiamento, una grande aria, perché uno che regala un libro si distingue piuttosto che regali, non lo so, un pacchetto di sofficini o di supplì fritti, non lo so. Beh, oggi parleremo del libro secondo una diversa accezione. Il libro, secondo me, vale per il suo software, vale per quello che contiene all'interno, vale per il pensiero che esprime, vale per l'attimo che immobilizza del sapere transeunte che l'umanità fissa su vari supporti. Il libro vale per le emozioni che ci suscita, vale per i ricordi che ci risveglia, vale per la commozione, per l'affezione, per la dedizione che noi dedichiamo alle sue pagine. Poi, finito questo, il libro è chiuso, il libro diventa un'altra cosa. La novità è che, abbastanza novità fino a un certo punto, perché se ne parla già da vario tempo, ma io questa mattina voglio parlarne in maniera approfondita, è che il più grande distributore di libri online, che è l'Amazon, da a un certo punto in poi vende più libri elettronici che libri cartacei. Non dice nulla, naturalmente, la vostra libreria, cartolibreria, Empor che verde anche libri, supermercato, mercatone degli oggetti fantastici, che anche lo scaffale dei libri, che è il vostro spacciatore personale di carta stampata, probabilmente ancora è ben lontano da mettervi in contatto con questa realtà. Ma la realtà che comunque investe un numero abbastanza impressionante di persone, è un indicatore di cui dobbiamo tenere conto. Se la più grande libreria online, cioè il più grande luogo che fornisce ad esseri umani libri, carta stampata, volumi ben rilegati, che gli arrivano freschi a casa, con un prezzo anche notevolmente abbassato rispetto a quello che loro spenderebbero per andarli a comprare in libreria, a un certo punto inizia a vendere più libri elettronici, cioè libri che non hanno una consistenza concreta, libri che non occupano spazio negli scaffali, libri che non raccolgono polvere, libri che non potete prestare e poi non vi vengono restituiti o vi vengono restituiti con le ditate di mortadella. No, libri elettronici, libri che non esistono, libri impalpabili, libri costruiti con il codice informatico, libri che comunque hanno lo stesso valore, la stessa anima. Un libro elettronico, quando lo leggete, vi dà le stesse sensazioni, le stesse emozioni, lascia un tracciato equivalente nelle vostre sinapsi, è comunque il frutto dell'ingegno, dell'immaginario, del lavoro, della dedizione di un autore come il libro cartaceo, però il grosso vantaggio è che non vi pesa, non vi occupa spazio, quando dovete traslocare non dovete riempire scatoloni di libri, sono quelli più pesanti, trasportarli sono pesantissimi, guardate un blocchettino piccolissimo, se contenesse scarpe, calzini, superlettili sarebbe abbastanza leggero, se contiene libri è cemento armato, e poi quando si cambia casa questi scatoloni rimangono chiusi per millenni. Io ho libri che non aprirò da 10 anni a casa mia. Guardate, penso che accada a tutti voi. Stanno lì belli, li rimpiango, non li butterei mai via. Hanno una storia, sono dentro dei foglietti che ancora appartengono alla mia scapestrata adolescenza. Ma non li apro da 10 anni. Cosa servono? Dici, ma già, domani li aprirai. No, non è vero che un domani li aprirò. Rimangono perché sono feticci, perché io do quel libro un valore che non è equiparabile a quello che in realtà è la funzione e l'utilità di quel libro. Se quei libri li avessi tutti classificati, se invece che Ogni volta che devo cercare un libro poi rinuncio, perché non so dove sono, ho cambiato mille volte l'ordine dei miei libri, poi ci hanno messo male i figli, la moglie, le persone di passaggio, sono stati spostati, messi, rimessi, buttati, assemblati, non so più dove sono i libri. Ogni tanto faccio una scoperta, trovo un libro che cercavo 6 mesi fa, mi era indispensabile magari per scrivere quel pezzo, per dire quella cosa alla radio, era introvabile, era scomparso, e poi riappare improvvisamente malandrino, nessuno l'ha chiamato, in presente lo ritrovi in mano, non sai più che farci, ti viene voglia di buttarlo via. Beh, tutto questo potrebbe finire. Sembra un'agenda in pelle, ma in realtà è un libro, o meglio, infiniti libri. Siamo infatti di fronte al Cybook, un lettore di ebook. Un angolo dedicato ai nuovi prodotti, ai nuovi ebook reader. Si parte dal più piccolino, 5 pollici, passando a un 6 pollici. Come si scarica un ebook? Dopo averlo acquistato, voi ricevete immediatamente una email in cui vi è un link e vi è anche una password. Presentato questo ebook reader tanto atteso in Italia perché c'era solamente sul mercato americano e in Inghilterra fino a poco tempo fa, adesso finalmente sono arrivati gli accordi con le case editrici, ci sarà entro Natale migliaia di titoli nuovi. 800240024. Quanti conati di vomito vi hanno assalito sentendo l'incipit di questa trasmissione? Quanto tutto ciò che avete più sacro, di più intangibile, di indelebilmente fissato nella vostra emotività, nel vostro corredo emozionale, nelle vostre convinzioni, nella vostra religione, nei dettami della vostra vita, nel vostro supporto etico che vi sostiene ogni giorno, si è sentito inorridire per quello che ho detto, come il libro, ciò che c'è di più sacro, ciò che dice più bello. Io con un libro non c'è migliore compagnia. Ah, datemi un buon libro, poi non me ne importa nulla, può crollare il mondo. Voglio il mio libro in mano, voglio sentirlo tra le dita. Sai, il contatto con la carta, quell'odore di carta e di stampa, ma vedere le copertine. Ecco, io tutto questo l'ho messo sicuramente in secondo piano. Di fronte alla utilità razionalmente percepibile avere a disposizione il maggior materiale possibile, indicizzato, facilmente rintracciabile e soprattutto leggero, portate da potersi portare dietro ogni momento con la propria tavoletta o con la propria possibilità di raggiungere online il grande distributore dei libri, ognuno ha sotto mano centinaia di migliaia di titoli senza bisogno di fare nessuna fatica. Beh, come vedete questa possibilità? Semplicemente attribuite il mio parlare in questa maniera della mia malversata passione per tutto ciò che è nuovo, per una sorta di mio luddismo al contrario, che ciò che rappresenta tecnologia e innovazione è buono mentre tutto il resto è passatismo bieco, o cominciate anche voi a capire, a percepire, a sentire l'utilità del mondo impalpabile, del mondo sottile, del mondo del bit che sostituirà ogni materia pesante nel nostro immaginario. 800240024. Dio mio, vado in California e vedo le persone che girano con questo qui, non c'hanno zaini di 15 kg, si chiama Kindle, lo fa la Amazon, costa 235 euro, pesa 210 grammi, non è un computer. Non è retroilluminato, non ti dà fastidio agli occhi, è una tecnologia nuova, sono palline che girano dal bianco al nero. C'è già una SIM sua che hai già pagato, quindi non paghi il collegamento a nessuno alla rete, basta che prendi un wifi qualsiasi e ti scarichi tutti i libri del mondo, 200.000 titoli di Amazon. Vuoi un libro qualsiasi, lo digiti, c'è una tastierina, vai, lo ordini a Amazon, Amazon ti manda le prime 100 pagine, se ti piace lo ordini tutto in 10 secondi e paghi 9 dollari. Vuoi leggerti qualsiasi giornale del mondo? Te lo leggi con un dollaro di abbonamento al mese. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stanno parlando? Della scuola, dei bidelli, dei vestitini, dei grembiulini? Di che cosa stiamo parlando? Io devo dire, ho sempre guardato con molto sospetto quello che dice Beppe Grillo, ma non mi ha mai particolarmente affascinato, nemmeno ho trovato sinceri motivi di affezione per questa sorta di populismo, il popolo della rete e il vaffanculo al mondo. Ho trovato una maniera sin troppo facile di giocare demagogicamente su quello che è il consenso in rete. Guardate, vi faccio un esempio per farvi capire come agisce la rete rispetto al consenso. Ieri ho lanciato una campagna di boicottaggio del pollo Cimone, che trasuda passione. C'è la foto di una massaia che frigge una padella di patate fritte, in ghepierre, calze, vestita di veli, è la réclame di questo pollo Cimone, il pollo che tiene unita la famiglia. Dice: trasudo passione se friggo Cimone, una detestabile pubblicità sessista. Non avevo niente da fare ieri pomeriggio, mi annoiavo, mi sono divertito a inventare, a disegnare e a proporre la pubblicità sessista, raccogliendo naturalmente il plauso di tutte le suffragette, di tutte le vergini vestali, di tutti i denigratori di questa massaia che per friggere il pollo deve dimostrare che a lei frigge anche la più intima natura. Ecco, la rete è anche questo, ma la rete è anche la meravigliosa possibilità di non avere cose pesanti. Anch'io ogni mattina per anni vedo i miei figli uscire da casa con degli zaini di Atlante sulle spalle, li vedo piegati, macilenti, 10 kg, 15 kg. Dico: ma perché vi portate tutti questi libri? Il papà vi regala una tavolettina dove ci mettiamo dentro tutte le cose che vi servono. No papà, le maestre non vogliono, poi le professoresse non vogliono. Adesso che è al liceo mio figlio ancora deve scrivere i compiti a mano. Deve scrivere i compiti a mano perché? Perché non viene ammesso che possa esistere un supporto elettronico. Nella vita non scriverà mai più a mano nient'altro che la sua firma da qui agli anni futuri, ma deve fare i compiti, i temini, le versioni, tutte scritte a mano, perché viene considerata una sorta di blasfemia il fatto che usi un supporto elettronico. Intanto il tanto mondo va da un'altra parte. 800240024. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Vediamo un po' di fare un punto e sentire il parere di qualche ascoltatore su questa mia lunga elucubrazione, anche un po' delirante. Io ero un accanito lettore, sono tuttora un accanito lettore, ma ero un soggetto che dipendeva proprio fisicamente dal libro, nel senso che acquistavo libri, ma era veramente un feticcio, al limite estremo che molte volte, come facevo spesso, entravo in libreria, vedevo dei libri che mi interessavano e li desideravo acquisirli e portarmeli a casa, libri che a volte non ho neanche letto. E avevo una libreria che era un allineamento di tutti questi feticci, libri che non toccavo da anni, come succedeva. Giancarlo, ripeto, non c'è niente di male, io sono pienamente convinto che ogni supporto alla nostra tranquillità sia benvenuto, figuriamoci, cioè che non c'è più spazio, quello è il problema, almeno a casa mia non c'è più spazio per libri, non so cosa farci. Io avevo gli scatoloni addirittura, quindi a un certo punto per fare spazio ai nuovi libri creavo degli scatoloni che mettevo in un angolo, quindi era veramente un avanzamento dello spazio per accatastare i libri. E poi l'anno scorso in un viaggio negli Stati Uniti ho visto l'oggetto dell'ebook della più grossa casa che c'è nel mondo. Il Kindle l'ha visto, penso. Kindle, esatto, il Kindle, e mi sono lasciato catturare quasi nella stessa dinamica dell'acquisto del libro, ho acquistato il Kindle. E sono diventato un appassionato utilizzatore del Kindle, ma soprattutto ho scoperto una cosa, che a differenza del rapporto oggettuale con il libro, il Kindle mi ha messo in una condizione di captare molto di più le emozioni, le sensazioni, cioè c'è una concentrazione, un'attenzione diversa che non avevo con il libro cartaceo, nel senso che il fatto di possedere il libro cartaceo in qualche modo mi dava la sensazione che se volevo potevo rileggerlo e quindi a volte leggevo anche distrattamente. Ecco, questo tipo di rapporto è cambiato con il Kindle, l'attenzione, le emozioni sono sicuramente diverse, sono più intense, sono più presenti. Naturalmente, grazie Giancarlo, chiedo anche pareri opposti, pareri diversi, sennò sembra troppo facile, sembra che tiri acqua al mio mulino. E ancora ho pochissimi libri elettronici, ancora uso moltissimi sistemi tradizionali, quindi non sono assolutamente avanzato in questa direzione, però intuisco che potrebbe essere una maniera per affrancarsi dalla tirannia del libro cartaceo. Francesca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie per lo spazio. Volevo dire, la cosa più importante rispetto alla lettura che mi è successa nell'ultimo anno, perché io amo molto leggere, è la scoperta di questo lettore vocale con pronuncia perfetta, voce femminile, quindi una presenza trasparente che non fa sentire per niente la sua artificialità, che mi ha permesso di leggere decine di libri. A lei se li fa leggere dal lettore? Esatto, io me li faccio leggere e entro dopo pochi secondi subito in sintonia con questa lettura, come se qualcuno mi leggesse una favola. No, io conosco ho dei sistemi molto probabilmente più rozzi dei suoi che mi porto dietro da anni, ma molte volte quando scrivo un pezzo o qualcosa di lungo, con una voglia di rileggerlo, lo sbatto nel lettore, lo sento riletto e mi accorgo se suona o non suona e poi faccio le correzioni. Quindi capisco perfettamente l'uso della protesi, è interessante, divertente, cambiano le voci, come sentirsi raccontare un libro. Se io perdessi ogni lavoro, mi piacerebbe fare il raccontatore di libri, secondo me sarebbe anche un bel lavoro leggere i libri agli altri, mi piacerebbe molto leggere i libri. Grazie Stefano. Sì, buongiorno. Senta, io faccio dei libri, oltre ad essere un lettore di narrativa, insomma romanzi eccetera, io faccio dei libri anche un uso professionale, nel senso io ci lavoro con i libri. Ma li vende e li acquista? No, insegno all'università e quindi è un docente universitario. Sono un docente e quindi leggo, insomma, anche per professione, se posso dire. E ho bisogno nei miei lavori di citare da libri. E il problema che ho, dunque, con i libri cartacei, come tutti quelli che leggono, ho un problema di spazio, anche se mi piace l'oggetto libro, mi piace avere, come lei diceva all'inizio, certi volumi, certe opere. C'è una meravigliosa casa editrice milanese, la Sylvester Bonnard, che pubblica libri che parlano di libri e che ha dedicato tanto all'oggetto libro. Io condivido questa passione. Guardi, non però so se servisse, tanto per non farmi, ma sono d'accordo, non c'è niente di più bello che un piccolo studiolo arredato di libri, a me piace molto. È che è un problema fisico, quando uno poi deve razionalizzare casa propria, che i figli crescono e tutto, dove li mette i libri? Uno non può comprare una casa apposta per tenere i libri, ecco. Cioè, conosco qualcuno che l'ha fatto, ma aveva anche altre possibilità. Sì, beh, beati loro. Ecco, esatto. Quindi io sono più che favorevole al libro elettronico, però per chi usa i libri come li uso io, quindi ha bisogno di citare, purtroppo siamo in una fase in cui questo non è ancora possibile. Perché manca il sistema di ricerca. No, questo. La ricerca c'è, però voglio dire, io voglio citare, negli articoli scientifici si cita una frase, un passo e si mette la pagina. Nell'ebook, siccome l'ebook viene rimpaginato, sì, a seconda del font che scelgo, della grandezza del carattere, eccetera, io non ho più la scansione delle pagine che ho nel corrispondente versione del libro a stampa. Sì, però vediamo, perché questo ecco, entriamo nell'aspetto tecnico, direi che citando la fonte e dando per scontato che chi legge abbia un ebook, lo mette nella ricerca e lo trova istantaneamente il punto. Ma a questo punto devo cominciare a far entrare in gioco qualche esperto, qualcuno con questo sistema, con questo mondo, questo universo, lavora già da anni, come ad esempio Antonio Tombolini. Tombolini, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. L'ho fatta sentire, come anche l'altro ospite, a stare in ascolto fino adesso, che volevo che aveste una prima impressione di quello che è un pubblico medio, di una media trasmissione radiofonica, una media fascia oraria. La prima reazione di fronte a una provocazione iniziale che sembrava anche molto forte, molto veemente rispetto alla classica percezione del libro. Ricordo che Antonio Tombolini ha fondato la Simplicissimus Book Farm, che si occupa della distribuzione dei principali e-reader presenti sul mercato europeo e fornisce anche contenuti per ebook. Tombolini ha cominciato a interessarsi agli ebook già dal 2004, era l'anno in cui eravate veramente in pochi a sapere di questo tipo di innovazione tecnologica e poi in realtà i tempi vi hanno dato ragione. Ci racconta Tombolini velocemente come lei ha intuito tra i primi in Italia che questa è una buona strada e poi una risposta al nostro amico professore universitario che non sa come mettere le note che citano altri libri se non ha una certezza sulla pagina. Ma no, il nostro amico insegnante docente ha centrato un problema, comincio da questo, che è proprio quello delle citazioni, che però è in via di soluzione. Il problema è molto semplice. Ma lei in viva voce, Tombolini? No. Ah, perché sentiamo, stia più vicino se possibile al telefono, perché sentiamo un allone un po' brutto. Grazie. Dicevo, il problema delle citazioni è un problema reale, perché il formato degli ebook, il formato EPUB, è un formato che si reimpagina volta per volta a seconda della grandezza dei caratteri, quindi non c'è un numero di pagina fisso per ogni passaggio del libro. Il problema però è abbastanza facilmente risolvibile se poniamo mente al fatto che la citazione soprattutto dei super classici, pensiamo alla Bibbia, pensiamo alla Divina Commedia e così via, non è mai avvenuta attraverso un numero di pagina, ma è sempre avvenuta attraverso la citazione del versetto, capitolo, paragrafo, eccetera. Sì, ma magari un testo scientifico ha bisogno... Probabilmente si sta andando in questa direzione, c'è un consorzio che è no profit, che si chiama IDPF internazionale, che detta le regole per il formato degli ebook, che sta ponendosi questo problema, sta andando verso una soluzione di questo genere. Ma in realtà ci dovrebbe essere una sorta di metadato invisibile che permette subito di ritrovare il punto, qualcosa del genere, adesso non so bene esattamente. Con lo strumento di ricerca senz'altro, il problema resta per chi dovrebbe comunque poter leggere la citazione su un libro di carta e poter avere un riferimento a prescindere dallo strumento che utilizza, che magari potrebbe non essere dotato dello strumento di ricerca. Sì, perché all'ebook non c'è problema, come ho già detto, lo mette appunto nella ricerca. Antonio Tombolini, dobbiamo un attimo lasciare la linea alle informazioni della borsa, resti in linea come anche l'altro nostro ospite che poi presenterò, e parleremo anche in seconda parte in maniera più approfondita, tecnica e specifica su il nuovo mondo degli ebook, che per qualcuno spaventa, qualcuno invece rappresenta una formidabile occasione, una formidabile opportunità. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Quello che sto leggendo non è un libro, sono infiniti libri. Stiamo parlando dei nuovissimi ebook reader, lettori di libri digitali che possono immagazzinare al loro interno più di 1000 libri diversi. Se lo confrontiamo con un libro normale, vediamo che è più piccolo nelle dimensioni, molto più sottile e anche più leggero, quindi più facile da trasportare. Per non parlare poi dell'autonomia, un lettore di libri di questo tipo dura anche 15 giorni, può sfogliare 1000 pagine senza essere ricaricato. Questo display, che ha una risoluzione di 800x600, è un display in bianco e nero che riesce a simulare proprio l'effetto della carta. Naturalmente ci sono gli entusiasti, quelli che hanno il feticismo per l'oggetto, quelli a cui non sembra vero avere l'ultimo lettore in termini di tecnologia avanzata. Ce ne sono tantissimi, sono varie soluzioni, il problema ce ne sono tanti. Il problema è che ancora naturalmente in questa sorta di giungla non c'è uno standard unico, uno standard affermato, una compatibilità di formati, ognuno c'ha il suo formato, ognuno c'ha il suo lettore. Per leggere tutti i libri che uno volesse leggere, che offre il mercato, occorre comprare tutta una serie appunto di lettori, questo complica un po' le vicende. Poi naturalmente c'è l'altro versante, e devo dire questa mattina, lo dico con una punta di rincrescimento, ma allo stesso tempo con una frenetica passione per ciò che rimane immutabile nel tempo, che è il pubblico femminile, quello più conservatore. Le signore sono quelle che più si dispiacciono della novità, del passaggio dall'oggetto palpabile, dall'oggetto che ha un suo spessore, una sua dimensione, una sua corporeità, all'oggetto incorporeo, che è il libro elettronico, come ad esempio Paola. Paola, buongiorno. Buongiorno, Melo. È giusto quello che ho detto? Sì, è giustissimo. Infatti io sono piena di libri, anche sopra il letto. Vabbè, potrebbe usare meglio la sua superficie del letto, sì, sinceramente. Sì, quello senz'altro, quando serve. Sì, ma ci sono i libri, hanno un cattivo odore, pesano, portano polvere. No, sono libri tenuti bene, sono libri, c'è la biblioteca piena. Io dovrei essere nata dentro una biblioteca. Comunque, per l'età che ho, mi sembra di essere nata in un'epoca sbagliata, forse. Ma una fanciulla romantica di altri tempi? No, beh, leggo un po' di tutto, non è proprio che mi piace un tipo di libro sul romanticismo. A me proprio toccare il libro e leggerlo è come avere un rapporto carnale, cioè io sogno solo se lo tocco, io devo toccarlo il libro. Pensi con la Treccani, è un'orgia? Sì, una cosa del genere, non lo so come dirlo. Però... altro che il bunga bunga, vabbè. Sì, se dà questa sensazione, diciamo che è riproducibile attraverso il supporto elettronico, a meno che non si rivolga a supporti che non si vendono nelle librerie. Quindi non saprei che dirle, rimanga nel suo fantastico mondo dell'erotismo cartaceo e non sappiamo come risolvere il suo problema. Però forse può aggiungere qualcosa Antonio Tombolini, che avevamo interrotto all'inizio della prima parte, fondatore della Simplicissimus Book Farm, che si occupa appunto di distribuire sia i principali reader sia i contenuti per fare ebook. Ecco, si è mai trovato lei, Tombolini, in questa sorta di dilemma di dover spiegare e convincere o far la parte dell'innovatore a tutti i costi di fronte a persone che non rinunciano a questo lecitissimo piacere carnale del contatto fisico con il libro? Ma certamente sì, prima tra tutti con me stesso, perché naturalmente ho 51 anni quasi e ho vissuto anch'io e continuo a vivere con abbondanti quantità di libri di carta e di pagine attorno. Che secondo me non vedremo mai scomparire nel corso della nostra avventura esistenziale, secondo me. Probabilmente no, anche se va detto che i ritmi di cambiamento, la velocità di questo cambiamento è molto più rapida di quanto perfino i più entusiasti si aspettassero fino all'anno scorso, se si pensa che già oggi negli Stati Uniti, a parte Amazon, ma in generale sul mercato dei libri, il libro elettronico rappresenta già il 10% del totale delle vendite dei libri in quel paese, e non si fa fatica a presumere che nel giro di 3 o 4 anni su quel mercato si possa arrivare attorno al 50%, quindi effettivamente il ritmo di cambiamento è molto molto rapido. Ecco, tutti facilmente risponderanno: questo è un fenomeno tipicamente americano, prima che ciò che accada alle nostre latitudini chissà quanto tempo passa. Però se adesso sentiamo Gianluca Cremoni, buongiorno Gianluca Cremoni. Buongiorno, buongiorno. Forse può smentire anche questo tipo di pregiudizio. Cremoni è fondatore della casa editrice Kippol, che pubblica per lo più libri di fantascienza, esiste dal 95, ma da un anno pubblica ebook che hanno superato nelle vendite i libri cartacei. Quindi questo fenomeno è percepibile anche nel nostro paese, così drammaticamente arretrato dal punto di vista della percezione del mondo digitale, almeno come si dice. Sì, assolutamente, cioè, noi abbiamo iniziato a fare ebook appunto da un anno, nonostante io riconosca già insomma dal 99, quindi aspettavo, guardavo con curiosità questo fenomeno, però sì, quest'anno, l'anno scorso meglio, è cambiato qualcosa, cioè, c'è stato un passo, un'evoluzione, e abbiamo provato a fare questi ebook, abbiamo cercato la formula migliore che fosse più comoda per il lettore, perché quello insomma è lui che ha ragione, e sorprendentemente noi come vendite vendiamo più ebook, questo già da dicembre noi abbiamo un percentuale maggiore di titoli ebook che cartacei. Può essere che il genere fantascienza associa un lettore tecnologicamente molto avanzato, quindi ama leggere il suo libro anche in formato elettronico. Sicuramente. I libri di cucina probabilmente o i messali ancora ci vorrebbe un po' di tempo, ecco, magari. Sì, ma questo è ovvio, per quello è capitato prima a noi, perché chiaramente il target di chi legge libri e ama la tecnologia è evidente che insomma legge fantascienza più facilmente che altri generi. Lei, Cremoni, ha fatto anche una scelta molto coraggiosa di vendere libri non bloccati, o sbaglio? Sì, esatto. Spieghi un po' la differenza magari. Allora, sostanzialmente ci sono due tipi di possibilità. Sono due possibilità, con DRM, cioè i Digital Right Management, e senza DRM. Cioè, che cos'è questo DRM? È un blocco che l'editore decide di mettere sulla copia venduta. Cioè, io lo compro, lo posso leggere soltanto io. Lo legge solo lei e soltanto in quel supporto. Quindi, se lei dovesse cambiare i reader, volesse leggere solo sul PC o prestarlo a un parente, a devo prestargli la tavoletta, per forza, altrimenti non può. Diversamente, come facciamo noi, non c'è questo blocco, e quindi è un file. Ognuno è libero, è un file di ognuno è libero di copiarlo e insomma passarlo. Ma le faccio una domanda, sembrerà banale, ma io compro un libro, poi lo regalo a Intonti, a Chiappini, a tutti i miei colleghi, così è come se avessi comprato 10 libri, però lei ha il vantaggio, il guadagno soltanto di un libro. Come si rimedia a questo tipo di problema? Beh, infatti questa è una questione un po' dibattuta. In realtà, se ci pensa bene, allora io vendo un libro senza DRM, lei è libero di darlo a chi vuole, libero fra virgolette, nel senso il diritto rimane sempre in mano all'autore, quindi lei lo fa questa cosa, la può dare a migliaia di persone. È come la musica copiata, la stessa cosa. È come la musica copiata. Però, mentre con il DRM il blocco è bloccato, ma in realtà è facilissimo saltare questo blocco, è un'operazione da 30 secondi, quindi si sblocca comunque, certo. Ecco, la manizia del lettore dice no, ma io lo voglio sbloccare, lo faccio lo stesso questa cosa. Allora il ragionamento qual è? Io voglio dare, premiare, dare fiducia al lettore che dice vabbè, io preferisco prendere quelli intanto senza blocco e poi deciderò io se dare retta all'editore e quindi darlo soltanto agli amici e parenti e non metterlo, non so, su un sul peer-to-peer in un posto di condivisione, certo. Ecco. Senta, quindi... ma parliamo un attimo di prezzo, che molti mi chiedono perché non si rendono conto. Mediamente un libro elettronico quanto viene a costarci? Ma mediamente diciamo siamo su un 50 massimo per cento del costo di un libro cartaceo, perché ovviamente manca solo il costo della stampa, che non incide tanto quanto la gente possa credere, perché poi ci sono insomma il prezzo della grafica, l'illustrazione, l'editing, ci sono tutte cose che comunque rimangono, e quindi solo tolta la stampa si viaggia insomma sui, dipende poi comunque sui 50% del prezzo del libro cartaceo. Questa cosa, come uno si può accorgere, non tutti gli editori applicano il 50% del titolo ebook, ma fanno dei prezzi un po' più alti. E però mediamente anche... si può fare un prezzo medio dai 7 ai 15 euro, una cosa del genere? Sì, anche meno. Anche meno. Un libro costa anche 4 euro, 5 euro. Voi li vendete a 5 euro, mi sembra, i vostri libri? Sì, noi vendiamo i libri a 5 euro, però abbiamo sviluppato una formula per cui vendiamo anche racconti, visto che come anche la musica si poteva vendere una singola canzone, noi vendiamo singoli racconti o due racconti insieme a 99 centesimi oppure 2 euro a seconda della lunghezza del brano. Cioè, diciamo, se li può prendere, si fa un viaggio in treno, se li legge, o anche fare un regalo, perché è anche un regalo interessante, divertente, non occorre nemmeno andarselo a comprare, perdere tempo, incartarlo e tutto. Uno può anche regalarlo un ebook. Assolutamente sì. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Andiamo velocemente a qualche ascoltatore colpito dal nostro dilemma sul passaggio necessario tra libro cartaceo e libro elettronico in diverse maniere e con diverse sensibilità. Mario, buongiorno. Buongiorno. Da fastidio alla radio? Se la spegne meglio, certo. Sì, bene. Fatto. Volevo dire questo. Lei purtroppo ha detto di non avere più spazio in casa. Lo ma so. Vuol mettere vedersi tutti i libri letti e non letti? I miei sono più quelli non letti che quelli letti. A me vorrei vedere anche le pareti di casa mia ogni tanto. Questo ah. No, io non le guardo. No, assolutamente sono per il cartaceo da non prestare neppure. Vabbè, diciamo che... Guardi, io non ho nulla contro le passioni personali, anche se raggiungono livelli maniacali, sono delle formidabili maniere per assaporare la vita in tutte le sue più intime percezioni, quindi certo, se lei ama essere circondato da libri, non dirò mai che ciò è sbagliato. Io parlo del libro quando diventa strumento di lavoro, strumento professionale. Per me non sono un piacere i libri, non ne posso veramente più, sono cose che bisogna avere in mano perché fa parte del mio lavoro. Come muratore a 55 anni non ne potrà più di cazzola e martello e setaccio, che è la stessa cosa, quindi mi piacerebbe averli incorpori, veloci, avere delle case libere in cui non ci stanno libri. Bruna. Buongiorno dottore, dunque io sono invece per il cartaceo, anzi le dirò di più, che quando sono ammalata e siamo un gruppo di amiche che ci scambiamo i libri, ci sentiamo meno ammalate con un libro in mano. Non so come spiegarle. Sì, sì, è un sensazione. Potere taumaturgico. Certi libri basta imporre le mani e uno già si sente meglio, questo lo so. No, non è un potere taumaturgico. Cioè, il fatto di avere un libro in mano quando si sta male rende più passabile la giornata, perché lo tocchi, perché lo prendi, perché lo leggi, perché lo metti giù. Credo che per me il cartaceo mi rimarrà per tutta la vita. Ma questo, figuriamoci, le auguro gli rimanga il cartaceo e ogni altro supporto alla felicità, alla serenità, alla tranquillità. Qua stiamo parlando semplicemente di una maniera per razionalizzare la fruizione del libro. Andrea. Prego, Bruno, aspetti, l'ho segata. Bruno, devo concludere? No, sì, volevo concludere dicendo che la razionalità, per esempio, noi siamo amiche, ognuna compra un libro, poi ce lo scambiamo, poi lo leggiamo, perciò non ne abbiamo più di tanti, e con le siglette in alto, la A, la B, la C. Ma per voi è un oggetto di socializzazione, è un social network attraverso i libri. Certo. E figura, non ne potreste mai fare a meno, ma come la signora prima che sognava mucchiate con la Treccani, è la stessa cosa, ognuno poi ne fa quello che vuole. Andrea. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì, il mio intervento alla fine è la replica di quello che si è appena concluso, nel senso che a parte il tempo che uno mediamente impiegato può dedicare alla lettura durante la giornata, nel mio caso non so, un'ora e mezza, che te ne fai, voglio dire, dal mio punto di vista, di migliaia e migliaia, archivi infiniti di libri, quando ne posso mangiare uno ogni due settimane al massimo, dal mio punto di vista è così, ecco. Sì, sì, e ma poi noi stiamo parlando di uso ludico, sì, e sì, ecco, piacevole, e di uso anche professionale, perché il libro è anche uno strumento di lavoro. Secondo me va distinto, come avete giustamente ben fatto, l'uso professionale da quello un privato. Un docente universitario, uno studente. Un universitario che deve guardare centinaia di libri tecnici, compararli velocemente, è un attimo. Io resto per il cartaceo, anche perché così la butto sul pecoraccio e pecorero molto basso. Io sono appena rientrato da un viaggio di lavoro nel nord Europa, ma voi non avete l'idea, magari lei ce l'ha, del potere attrattivo nei confronti delle donne, delle ragazze del nord Europa. L'ho detto all'inizio, certo. Chiaro. L'italiano medio che con un libro in mano, da solo al pub, al ristorante, con un libro in mano. Ma è una cosa... Guardi, vale, basta andare in qualche caffè all'interno delle librerie, a Villa Borghese, o anche, che ne so, a Campo dei Fiori, i luoghi dove la radical sciccheria si raduna, vedrà dei signori o delle signorine assorte con dei libri in mano che non aspettano altro che qualcuno rivolga loro la parola. Il libro è sempre fermo alla stessa pagina, lo so che è uno strumento di seduzione e di attrazione. Antonio Tombolini, riprendiamo e andiamo un pochino alle conclusioni. Ci vediamo che ci viviamo uno spartiacque molto, molto ben definito, ma non direi preoccupante. Il libro continuerà a rimanere un oggetto di culto, di socializzazione, di status e via dicendo, come oggi ancora le signore si mettono gioielli addosso, anche se non c'è nessuna funzione che sancisca che quel gioiello determina un censo, perché gli piace, perché è divertente, che noi ci mettiamo il cappello quando non serve e via dicendo. Però secondo lei il mercato invece si sposterà decisamente verso questa direzione? Penso proprio di sì, anche perché c'è un problema di cui si è poco parlato, vorrei solo accennarlo. Certo, siamo... c'è un problema certamente di sostenibilità di spazi da parte nostra, nelle nostre case, ma soprattutto c'è un problema di sostenibilità della produzione di libri. Dobbiamo considerare che mediamente sono destinati al macero, dopo aver percorso tutti i passaggi della distribuzione, 6 o 7 libri su 10. È evidente che questa è una cosa che non può essere sostenuta né dal punto di vista economico né dal punto di vista ambientale. Ma che autore scalcinato tipo me lo sa che dopo qualche mese che è uscito il libro, in libreria non si trova più, negli scaffali non si vede più, ti arriva la letterina, sono avanzati, che ne so, 2000 libri, se li vuoi te li compri te a 4 lire, se no li buttiamo al macero. Esattamente, se posso permettermi, anche chi ha a cuore la cultura questo problema dovrebbe un po' averlo sott'occhio, nel senso che andando avanti così le librerie non potrebbero che continuare a fare quello che in gran parte stanno già facendo, ovvero puntare a dedicare i loro spazi solo ai libri cosiddetti sicuri, e quindi certo, continuando ad assistere a fenomeni Saviano, Vespa, Umberto Eco, ecco, dei vari Vespa, Saviano e compagnia bella, e penalizzando invece gli editori che volessero puntare su autori diversi o più tra virgolette difficili. Gianluca, sì, tutti hanno pari opportunità da questo punto di vista. Gianluca Cremoni della Kippol è d'accordo con quello che dice Tombolini, che in realtà ci sono dei passaggi arcaici e viziosi nella filiera della creazione del libro. Il libro esce, il libro viene pubblicizzato, se uno si dà da fare pubblicizzarlo, non sempre gli editori hanno voglia di pubblicizzare tutti i loro libri, va in libreria, il libraio lo tiene il tempo minimo necessario, poi lo leva fuori se nessuno lo compra e il libro diventa uno zombie, un cadavere. L'editoria elettronica aiuta a abbassare i costi di questa catena viziosa? Assolutamente sì, perché ultimamente appunto i libri al macero sono aumentati, quindi è tutto un ciclo che si può evitare. Io ho trovato un mio libro a 1 euro all'autogrill insieme ai salami, ma molto divertito. Alcuni libri prendono la via dei banchetti dell'usato quasi subito e quindi si salvano dalla distruzione, però insomma è un... è ovvio che la direzione del mercato è quella, cioè è inevitabile proprio che sia quella, e sarà sempre più così. E questo non vuol dire che scompariranno i libri, anzi, bisogna sempre considerare la tecnologia come una cosa stratigrafica. Due domande, Cremone, le faccio a lei. Un'ascoltatrice, Rosa, che è in linea, dice che è molto miope, quindi ha problemi di vista nel vedere l'ebook, secondo lei avrà problemi. E Tommaso dice ci sono pochi titoli in italiano. Sì, allora, innanzitutto bisogna dire una cosa che non è stata ancora detta, no? Parliamo di feticismo dei libri. Io, quando ero uno di quelli che andava in libreria, in biblioteca, annusava il libro e magari lo sceglieva anche in base all'odore, no? Lo quindi so benissimo. Questa cosa strana. E vabbè, invece cosa succede? Che adesso avrò il feticismo del carattere, cioè io adesso ho la necessità di ingrandire il carattere, quindi con questo rispondo alla l'ascoltatrice che chiedeva se, quindi se diciamo, gli ultimi lettori io, non danno problemi anche... No, io ingrandisco il carattere quanto voglio e quindi lo vedrò meglio che nel libro di carta, naturalmente. Non solo posso scegliere il carattere, posso scegliere l'impaginazione, l'abbiamo già detto, e posso anche cliccare su una parola e avere un dizionario sui pochi titoli in italiano, poi concludiamo. Ecco, pochi titoli in italiano, perché il mercato è ancora in Italia. È molto sospettoso. Sì, è un pochino sospettoso, i titoli sono ancora un po' cari, quelli che si trovano anche in carta hanno più o meno lo stesso prezzo, poco di meno in ebook, e quindi insomma gli editori... Quindi ogni libreria dovrebbe comprare... Viene una sorta di cattivo rapporto con il proprio pubblico, l'editore che lo vedi che è titubante, che ha paura, che non vuol fare questo passo. Ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, ringrazio Antonio Tombolini e Gianluca Cremoni, precursori nel campo dell'ebook. A domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.